Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto mondo. When Donald Trump says that he is not necessarily going to accept the will of the voters, he's flirting with treason. He's saying peaceful transition of power doesn't matter to him. All that matters to him, once again, is Donald Trump. Giulia, oggi una voce femminile, chi sì, era? Sì, è la Elizabeth Warren, la ricorderete tutti, era candidata una delle primarie, esatto, Donald Trump la chiama Pocahontas perché giusto, la trova molto naif, ma ricordiate, sappiamo che lui dà dei nomignoli a tutti, Mike Bloomberg lo chiamava Mini Mike perché non è tanto alto e Joe Biden è sempre Sleepy Joe. Elizabeth Warren interviene su questa dichiarazione perché ieri Trump non ha ripetuto quello che aveva detto 2 giorni fa, cioè che lui non assicura una pacifica transizione di potere nel caso in cui ovviamente il conteggio dei voti desse come presidente Joe Biden, perché bisogna aspettare. Ieri ha detto un'altra cosa, però ha detto ed è un po' la narrazione che stanno facendo anche i repubblicani, compagni di partito di Donald Trump, non è che non assicuriamo la transizione pacifica, aspetteremo il verdetto della Corte Suprema, e come sappiamo sulla Corte Suprema c'è in questo momento una grande questione. Domani dovrebbe arrivare il nome del giudice che sostituirà Ruth Ginsburg, che ieri tra l'altro è stata ancora una volta, le hanno ancora una volta reso omaggio alla Corte Suprema con l'esposizione della sua bara sugli scalini della Corte Suprema, così che anche tutti i cittadini normali, e la foto è su tutti i giornali di oggi americani, potessero renderle omaggio. Che altro abbiamo i titoli principali? Su questo volevo anche segnalarti una foto bellissima che è girata molto anche sui social, perché c'era una bambina, ma 3-4 anni, la foto è sulla prima pagina di USA Today, con un costume non da Superwoman, non da Superman, ma da Supergirl, quindi proprio tutta vestita, e naturalmente il senso è di quanto la figura di questo giudice costituzionale abbia ispirato molte donne, perché insomma aveva 87 anni quando è morta, quindi si può, tutta la sua vita è stata all'insegna di un femminismo ante litteram, o comunque di tante battaglie perché uomini e donne abbiano esattamente gli stessi diritti e le stesse opportunità. Allora Giulia, vorrei portarti in Francia, sì, per tornare su questo dibattito sull'idrossiclorochina, che sta al centro di tante discussioni nella fase, diciamo, più acuta del Covid, no? Come questo farmaco antimalarico, e adesso ritorna, diciamo, a galla, perché? Sì, naturalmente in Francia lo sapete, la situazione è molto drammatica, i giornali sostanzialmente titolano troppo poco e troppo tardi quello che ha annunciato il presidente Macron, tanto che, come abbiamo sentito nel GR, sì, come hai detto tu prima, si ipotizza anche un vero e proprio nuovo lockdown. Le Figaro, Covid-19, le nuove restrizioni suscitano polemica, e quindi non poteva mancare la voce, una delle voci fuori dal coro più famose in Francia, quella di Didier Raoult, che è questo medico microbiologo di Marsiglia che fin dall'inizio, e alla fila davanti ancora oggi davanti alla sua clinica di Marsiglia, fin dall'inizio aveva indicato l'idrossiclorochina e altri farmaci simili che sono usati soprattutto per la cura della malaria, per la cura del virus. Ma sentiamo le sue parole, perché è tornato su questo confortato dai dati che vengono dall'Africa. En Afrique, le taux de mortalité est incroyablement bas et reste bas. Alors les gens donnent beaucoup d'explications pour pas regarder la réalité. En réalité, c'est que en Afrique tout le monde prend des antipaludéens, et que la plupart des antipaludéens, que ce soit la quinine, la primaquine, l'artésimine... Il ragionamento è molto lineare, sì, perché capisce il francese. Aveva proprio di fronte a sé questi grafici divisi per, sì, continenti, e in Africa dice la mortalità è incredibilmente bassa. E perché? Io ho una spiegazione molto semplice: siccome la maggior parte dei paesi africani la malaria è una malattia endemica, quasi tutti fanno profilassi per la malaria, così come dobbiamo fare funziona. Noi quando andiamo in Africa, e quindi questa protezione da idrossiclorochina o farmaci simili li ha hanno protetti. Questa è la sua spiegazione. Poi naturalmente ci sarebbe anche da dire, ma i dati sull'Africa quanto sono attendibili, su certo, quanti certo. Quindi però insomma questo era il suo pensiero. Tra l'altro, parlando ieri con un amico, mi ha detto, ma io perché pensavo che ci fosse, che si fosse trovata una cura, no, della, per il Covid. Ricordiamo questa cosa perché magari è un po' sfuggita dai radar. Siccome in Italia i nuovi casi sono comunque molto meno gravi, ci si ammala di meno, i sintomi sono meno forti, non è perché ci si è trovata una cura, non c'è ancora alcuna cura, no? E quindi diciamo, se è meno grave l'esito è per altre ragioni, certo. Forse ancora non sappiamo, e ma non perché c'è una cura. Comunque cura non ricordiamo c'è. Insomma a favore di Didier Raoult che Bolsonaro, che a quanto sappiamo è guarito, si è curato a suo stesso dire proprio con l'idrossiclorochina. Però a proposito di cura, sì. Ti segnalo da Financial Times che apre tra l'altro sulla questione di questa peaceful transition, cioè di un passaggio pacifico dei poteri, se il voto dovesse dire che Biden ha vinto le elezioni. C'è il Data Watch giornaliero, la percentuale di americani che si dicono disposti a farsi inoculare il vaccino è scesa al 50%, era al 72% in aprile. Quindi collegandoci, non è un caso secondo me che negli ultimi giorni Trump di vaccino non abbia più parlato, perché evidentemente qualcuno gli ha detto attenzione a prometterlo per ottobre-novembre, potrebbe non essere un'arma elettorale così affilata come credo. Come crede lui, insomma. E forse anche insistere tanto con operazioni anche di carattere molto politico, come forse ha fatto Putin in Russia o come anche un po' Trump, che ha forzato la mano su questo vaccino, non aiuta già una situazione, come dire, per la gente non facile, no, di rapporto col vaccino, che il sospetto che poi sia tutto manovrato per questioni politiche, certo, c'è, e quindi forse anche perché sarebbe come abbiamo ricordato ieri, insomma, i massimi esperti che possono non avere la fiducia di tutti, perché purtroppo gli scienziati non sempre godono della fiducia dell'opinione pubblica, però continuano a ripetere il vaccino sarà pronto sicuro nella seconda metà del 2021. Ti segnalo, sì, però in tema di Covid, questa prima pagina di Metro. Stavo per chiedere cosa fa la fidanzata di Boris Johnson. Che insomma, Metro non è un tabloid, è una free press, ma è molto serio. E in prima pagina, infatti, ha tutto il piano. E il titolo è Radical Rishi. Rishi è Rishi Sunak, il cancelliere dello scacchiere, che ieri ha presentato l'ulteriore piano di stimoli. Ha detto molto chiaramente: io nel senso di esponente del governo, non potremo salvare tutti i posti di lavoro, non potremo salvare tutte le aziende. Che è quel termine che si usa anche sugli aerei quando bisogna allacciarsi le cinture, preparatevi a un autunno molto difficile. Ma la foto principale è la foto di un bellissimo motoscafo Riva, e il titolo è Rule of 600 Sterling a Night. Quindi ricorderete la Rule of Six, la regola dei sei, cioè che non si poteva stare in più di sei persone. Qui è la regola delle 600 sterline, perché tanto sta spendendo la compagna di Boris Johnson, che è in vacanza dove? Sul lago di Como, ed è stata paparazzata senza mascherina insieme a delle amiche, con in braccio il bambino suo figlio Wilfred, figlio suo e di Boris Johnson, che ha appena 4 mesi, e questo sta scatenando insomma parecchie polemiche. Non ho trovato traccia delle parole del nostro presidente Mattarella, ma chissà, magari nei prossimi giorni qualche tabloid. Nessun quotidiano inglese ha ripreso. Secondo me ci salteranno. Pure meritava. Sì. Secondo me gli è proprio sfuggita, perché non so quanti sappiano l'italiano e forse. Sì, Mattarella non è uno, diciamo, che normalmente è in primo piano nelle agenzie, nei radar dei media britannici. Però abbiamo ancora un minutino. Vorrei portarti un attimo in Germania, perché solo un flash da Israele, dove è iniziato il secondo lockdown, perché lì l'allarme è del Ministero dell'Istruzione, che sì, dice ci sono troppi bambini che non hanno i mezzi tecnologici per usufruire della didattica a distanza. E invece in Germania, anche qui abbastanza raro, un durissimo editoriale della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è un quotidiano profondamente conservatore, che dice se Trump continua su questa linea, cioè di non assicurare, di accettare il verdetto delle urne dicendo che ci sono stati dei brogli, ebbene abbiamo un Lukashenko in versione occidentale, cioè l'idea appunto di una persona che non accetta, come ha fatto il dittatore della Bielorussia, non accetta il verdetto delle urne. Grazie Giulia, ci risentiamo lunedì per la puntata di oggi. È tutto con, come sempre, Jacopo De Franchi in redazione e Pietro La Corte in regia. Da me, Alessio Maurizi, l'augurio di una buona giornata, buon weekend, a lunedì, ciao.